Se passate da via Broletto al numero 34, toglietevi il cappello e parlate sottovoce. Al primo piano dorme l'amore mio, è tanto bella la bimba mia e giura sempre di amarmi tanto. Ma quando io la bacio, lei ride e parla d'altro, o mangia noccioline. Troppe volte mi lascia solo e torna quando le pare, poi mi guarda appena, non dice dove è andata. Tante volte penso di lasciarla, io vorrei ma non posso andare. È la mia croce, la mia miseria, ma è tutta la mia vita. Per me è tutto il mondo, è tutto quel che ho. Se passate da via Broletto al numero 34, potete anche gridare, fare quello che vi pare. L'amore mio non si sveglierà, ora dorme sul suo bel viso, c'è l'ombra di un sorriso, ma proprio sotto il cuore ha un forellino rosso, rosso come un fiore. Sono stato io, mi perdoni Dio, ma sono un gentiluomo e a nessuno dirò il perché, a nessuno dirò il perché.